Se sei un artista indipendente e vuoi promuovere la tua musica, inviaci le tue produzioni al nostro indirizzo mail. Con Circuito Radio Net Web, la tua musica non avrà confini. Ed ora, in diretta con voi, il Mangia. Buon divertimento. Ci siamo, eccoci qua in diretta. Un saluto a tutti da parte del Mangia e benvenuti all'interno di questo contenitore settimanale denominato Mangia Show. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici e alle nuove amiche che tipo di trasmissione siete all'ascolto. Ecco, questo programma è condotto in studio da Andrea, o se preferite potete anche chiamarmi con il mio soprannome Mangia. È un soprannome, insomma, che mi hanno dato i miei amici e vorrei utilizzarlo qua in questa radio, cercando di essere il modo più possibile, diciamo così, amichevole. Per questo utilizzo questo pseudonimo. Rimarremo insieme per circa 60 minuti dove ascolterete della musica. Ma che musica ragazzi, non la musica consona trasmessa dalle principali emittenti radiofoniche che trasmettono in FM, ma ascolterete della musica cosiddetta Creative Commons, quindi sono canzoni che non appartengono alla tutela della SIAE, sono brani tutelati dalle licenze Creative Commons. E queste canzoni per l'appunto possono essere diffuse tramite onde radio, ma possono essere anche scaricate gratuitamente dal web. Mandiamo un saluto agli amici del portale yamendo.com, uno dei tanti portali che la nostra trasmissione attinge per proporre per l'appunto la colonna sonora del Mangia Show. Vi ricordo che se volete interagire con me o semplicemente volete contattarmi per farmi delle domande oppure semplicemente per porgere delle critiche o delle considerazioni, potete andare su www.andreamangiarotti.com e lì insomma trovate la mia mail e trovate tutti i vari contatti per interagire con il programma e interagire con il sottoscritto. In apertura, come ben sapete, purtroppo in queste settimane è partito il cosiddetto attacco alla Libia, questa operazione militare soprannominata Odissea all'alba è partita e gli aerei USA, inglesi e francesi stanno bombardando proprio la Libia. Insomma, speriamo che si possa giungere al più presto possibile a una tregua pacifica per la popolazione e anche per i soldati che purtroppo spesso sono lì così per difendere magari la loro patria oppure per servire la loro patria nel bene o nel male. Direi di partire subito con la prima canzone già in sottofondo dall'album di Dark Light. Ascoltiamo la traccia dal titolo Pandora Dark Light. Thank you. ritorniamo ancora alla situazione libica. La cosiddetta no-fly zone è stata attuata sui cieli della Libia, lo ha reso noto il capo degli stati maggiori americani, che per l'appunto afferma che le operazioni sono state un successo su i mezzi di Gheddafi che si prefiggevano di distruggere, anche perché ha aggiunto la forza della coalizione sono riuscite a fermare l'offensiva delle truppe fedeli a Gheddafi contro a Bengasi. Secondo una fonte del regime di Tripoli citata da Al Arabiya, è di 64 morti il bilancio delle vittime dei raid aerei compiuti in questi giorni, mentre è possibile vedere decine di veicoli militari della brigata Gheddafi distrutti lungo la via che porta a Bengasi. I caccia francesi hanno bombardato diversi mezzi militari, mentre il Pentagono ha reso noto che un totale di 110 missili da crociera sono stati lanciati dalle unità americane insieme a quelle britanniche. La Russia ribadisce che il proprio rammarico per i bombardamenti e chiede un cessate il fuoco. Sulla stessa linea anche la Cina, attraverso il ministro degli esteri, si dice rammaricato per gli attacchi militari contro il paese. Critiche anche della Lega Araba, secondo quanto riferisce la TV satellitare Al Arabiya, il segretario generale della Lega Araba ha affermato che quanto sta accadendo è diverso da quello che avevamo chiesto noi della comunità internazionale. La Lega Araba aveva chiesto che si creasse una no-fly zone sui cieli libici. Insomma, questo è quanto. L'Italia sembra mantenere una posizione un pochino cauta, non si espone in primo piano, quindi forse anche per questo che Sarkozy ha avuto tutta questa visibilità, e ci sembra veramente strano che sia così fermamente convinto di abbattere Gheddafi. L'Italia era uno dei paesi principali, come ben sapete, che con la Libia insomma trattava in diversi settori. Ora la Francia si fa proprio portavoce di questo attacco militare. Staremo a vedere nei prossimi giorni come proseguirà questa situazione, direi molto molto incandescente e, ahimè, devo ammetterla, anche purtroppo molto sconcertante, soprattutto per quello che sta accadendo con questa guerra, che è una vera e propria guerra, anche se la dipingono come sempre come missione magari umanitaria, però quando ci sono di mezzo le bombe, i razzi, gli aerei, insomma non mi sembra proprio una missione umanitaria. Va bene, dai, andiamo avanti, pensiamo alla musica e vi regalo una bella canzone molto molto dance di Felix dal titolo Drink and After Hours. Felix, questo grande produttore, che lo potete ascoltare anche su yamendo.com, potete scaricare le sue opere molto pregevoli se magari amate la musica dance un po' più raffinata. che Gheddafi ha lanciato un messaggio tramite la TV di Stato libica, non in video, ma si ascoltava solo la sua voce molto molto disturbata, dove ribadiva il suo dissenso verso questa operazione congiunta da parte delle forze della NATO. Anzi, citava che è pronto a una guerra santa proprio contro l'Occidente. Non so se l'Italia sia coinvolta, però insomma faceva presagire un odio proprio verso l'Occidente. In questi giorni sono stati intensificati gli aeroporti, i controlli sugli aeroporti, i treni, perché magari si sospetta un attacco terroristico. E sempre sul fronte libico, purtroppo è stato ucciso in questi giorni un blogger che cercava di dare informazioni nella zona calda, nella zona di Bengasi, raccontando tramite il suo blog e tramite anche la collaborazione con testate mediatiche importanti tipo Al Jazeera, Al Arabiya. Purtroppo è stato ucciso questo blogger da un cecchino. Insomma, veramente un pensiero a questo ragazzo che ha perso la vita con la passione di raccontare ciò che accadeva in quella terra. Molti di voi ricorderanno Enzo Baldoni, anche lui è scomparso proprio, insomma, facendo il suo lavoro sul terreno, raccontando imparzialmente quello che accadeva in Afghanistan. E anche Antonio Russo di Radio Radicale, ricorderete, anche lui è scomparso proprio in Cecenia mentre stava raccontando le rivolte del popolo ceceno. Va bene, onore veramente a queste persone che per spirito di libertà e legge al dovere, per raccontare a tutto il mondo ciò che accade nelle loro terre, rischiano anche la vita. Non fanno certo parte del, insomma, di alcuni giornalisti, insomma, che vedete sempre mezzo busto in giacca e cravatta a raccontarvi magari dallo studio quello che accade nelle zone calde. Va bene, siete sempre all'ascolto del Mangia Show. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ora eccoci tornati ancora in diretta con il meglio della musica, il meglio delle nostre notizie. Vi ricordo il mio blog www.andreamangiarotti.com se avete voglia di interagire con il sottoscritto per raccontarci, insomma, le vostre opinioni in merito alla trasmissione oppure in merito al sottoscritto. Vi piace o non vi piace il Mangia Show, potete comunicarcelo su www.andreamangiarotti.com. dopo questa bella canzone dance andiamo avanti con l'ascoltare una traccia molto bella dell'artista finlandese Doc, che si diverte su yamendo.com a proporre le sue sperimentazioni musicali che possono toccare diversi generi, della musica dance ma anche la musica classica. Quest'oggi vi faccio ascoltare questa canzone che ovviamente fa sempre parte del suo repertorio, direi molto molto futurista. A tutti il buon ascolto con la grande musica sperimentale e futurista di Doc. Möchtest du vielleicht noch etwas anderes sagen als deinen Namen? Niemals, niemals. es nicht unheimlich. Nein, befürchte auch nicht. Niemals, niemals. Ist dir das nicht unheimlich? Nein, befürchte auch nicht. Niemals, niemals. Ist dir das nicht unheimlich? Was soll ich sagen? Stimmt das? Stimmt das? Stimmt das? Und was soll ich sagen? Poteva che essere lui, grande artista finlandese Doc, con questo brano, ennesimo disco decisamente molto molto sperimentale. Ora ripropongo una traccia che personalmente apprezzo molto, spero sia anche per voi un buon ascolto. Sto parlando del brano di DJ Mirko dal titolo The Last Sunset, questa versione dance. Spesso la propongo perché mi piace molto. In particolare mi piacciono queste atmosfere un pochino retro che non guastano mai. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show, scusate, ho un attimo un po' di tosse. Il grande programma in onda su questa radio. DJ Mirko, The Last Sunset. Dopo questo brano una pausa. Poi vi leggeremo i film in programmazione nelle vostre sale predilette. State con il Mangia Show. We'll be right back. state ascoltando il Mangia Show. Per collaborare alla trasmissione www.andreamangiarotti.com. Siete a bordo del Mangia Show. Ora invece diamo uno sguardo alle pellicole in programmazione nel vostro cinema preferito. In questi giorni è uscito Amici miei, come tutto ebbe inizio. Nonostante la scomparsa di Mario Monicelli, che ha diretto i primi due capitoli, risorge la saga di Amici miei, esposta le lancette indietro di circa 500 anni. Siamo nella Firenze della fine del 400, alla corte di Lorenzo de' Medici. Un cast all-star di primo piano, ricordiamo De Sica, Panariello, Placido, Ender e Massimo Ghini. Per la regia di Neri Parenti, maestro del cine Panettone, viene riproposto insomma questo Amici miei che, come hanno detto gli stessi attori protagonisti, non vuole essere, diciamo così, un remake dell'originale, ma probabilmente un simpatico omaggio al capolavoro di Mario Monicelli. Poi nelle sale trovate anche Dylan Dog, il film, e possiamo andare avanti con un'altra pellicola, Nessuno mi può giudicare. Alice ha 35 anni, un figlio e una bella casa ai Parioli. Poi ha anche un marito che muore tragicamente in un incidente. La sua fine segna l'inizio e l'improvvisa esperienza di questa donna che rimane vedova. Senza più soldi, Alice decide di intraprendere una nuova carriera. Indovinate quale? La carriera della escort. Nessuno mi può giudicare al cinema. Andiamo avanti vedendo le pellicole in programmazione per queste settimane. Poi abbiamo un film francese, Tournée, e poi c'è un film italiano, Sorelle mai. È un film per la regia di Marco Bellocchio, piacentino, nato nella città di Bobbio, e Bellocchio ripropone insomma la sua vita familiare. Infatti nel cast figura anche Letizia Bellocchio, Maria Luisa Bellocchio, Elena Bellocchio, Pier Giorgio Bellocchio, insomma tutta la famiglia Bellocchio per questo film dal titolo Sorelle mai, che potrete vedere nelle vostre sale preferite. Poi abbiamo Ruth Irish, un altro film, Il dilemma, e poi concludiamo con Frozen. Ora invece andiamo avanti con il grande capolavoro dei Rain, già in sottofondo L'erba ai lati della strada. Rain. E non è mica semplice sorridere oltre i guai, andare contro un vento senza un filo di poesia. E tu mi dici sempre di restare umano, di non scoprire il fianco. E tu mi sembri sempre tutto quello che vorrei. Di cui non vergognarmi, avere un passaporto di cui fare a meno. Per questo preferisco gli zingari e i loro furti reali o inventati dai giornali. Per questo preferisco le strade di periferia. Sopra il cuore, il sole che si allunga è dentro la mia stanza, i fiori che schiudi senza farci neanche caso, le distanze, i chilometri. Senza farci neanche caso, le distanze, i chilometri. L'erba ai lati della strada, l'erba alta in primavera, l'erba che ci sarà sempre, quella che ieri non c'era, quella che spunta nel mentre, l'erba utile a nessuno, in ai lati della strada a cantare Rain. All'interno del Mangia Show, in compagnia del Mangia, ancora per pochi minuti, poi ci ritroveremo ancora, non disperate, prossimamente per un'ennesima trasmissione bella pimpante come la musica dei Rain. Vi ricordo ancora il mio blog www.andreamangiarotti.com, se magari volete approfondire la mia persona potete anche scrivermi all'interno del blog, vi risponderò con molto piacere, potete anche segnalarci se vi piace o non vi piace la canzone. Ora andiamo avanti nell'ascolto del bellissimo album di musica jazz di Jack Errol Quintet. Stiamo ascoltando tutte le tracce, è un bellissimo live composto proprio da questa band di musica jazz. Quest'oggi vi propongo il brano dal titolo Dep Minor, a cantare la grande orchestra Jack Errol Quintet. Thank you. un grande live di Jack Errol Quintet. Questo brano era intitolato Dep Minor, bellissima canzone e direi anche ottimi musicisti. Ora cambiamo completamente genere per quanto concerne le nostre news, parliamo di internet. Pensate un po', il sito del New York Times sarà a breve a pagamento. Un passaggio significativo, così l'editore dello storico quotidiano americano ha detto proprio in una lettera ai lettori, che il prossimo 28 di marzo il sito del giornale sarà a pagamento. Da ieri gli utenti canadesi potranno sottoscrivere un abbonamento digitale, il costo partirà da $15 al mese, ma ci sarà anche una versione per iPod a $20. Altre edizioni pensate per gli smartphone, eccetera eccetera. Sarà comunque possibile consultare gratuitamente fino a 20 articoli al mese. Nel giustificare la decisione, già anticipata nel gennaio scorso, di trasformare il New York Times in un sito a pagamento, l'editore spiega che in questo modo si rafforza la nostra capacità di fornire ai lettori di tutto il mondo un giornalismo di qualità. L'unica cosa che vabbè, bisogna continuare a tirare fuori i soldini se volete leggervi il New York Times. Questa era la notizia per quanto concerne il mondo del web, tanto per cambiare un pochino, non insomma soffermarci solo sulle cose brutte, ma leggiamo anche qualche notizia dal mondo che può essere frivola o meno frivola. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto del Mangia Show, ancora per poche battute, e dopo la bella musica di Jack Errol Quintet direi di farvi ascoltare invece un brano di produzione indiana che ho trovato in questi giorni su www.yamendo.com. c'è un album vivamente consigliato, loro sono i Jets Goa India e ci propongono questa canzone dal titolo Simple Samba. Loro sono dall'India e vi propongono questa bella canzone, ascoltate. Original music from Goa India. Goa India, questa canzone è intitolata Simple Samba, ci ha messo veramente in allegria. Purtroppo siamo giunti al termine anche per quest'oggi, però non disperate che prossimamente ritorneremo ancora in diretta con un altro Mangia Show, con le nostre canzoni e le nostre curiosità dal mondo del web e dal mondo, insomma, della cronaca, della politica, del costume, dello spettacolo globale, da tutto il mondo. Bella è questa canzone, vi ricordo che potete trovarla su yamendo.com, basta cercare GOA India, Jazz Goa India, e trovate questo album appena pubblicato su licenza Creative Commons, quindi ve lo potete scaricare, ve lo potete ascoltare. Carino, eh? Ora mandiamo immediatamente la sigla e poi ci saranno i saluti. Sigla! Avete ascoltato il Mangia Show. Tutte le informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Siamo giunti al termine anche per quest'oggi, grazie a tutti per l'attenzione, il Mangia vi saluta, vi ringrazia e vi rinnova l'appuntamento al nostro prossimo appuntamento, scusate il gioco di parole, sempre ovviamente con il Mangia Show. Scusate per le papere, ma piano piano, insomma, mi sto riprendendo dopo una settimana veramente di fuoco per quanto concerne l'influenza. Ora piano piano, insomma, sto tornando ancora in forma come qualche settimana fa. Bene, in conclusione vi ricordo tutti i nostri vari contatti, se volete interagire con il sottoscritto, www.andreamangiarotti.com, questo è il mio blog, lì potete scrivermi per esprimere considerazioni, pareri positivi o meno positivi sulla trasmissione. Se volete segnalarvi qualche canzone, fate pure, sono a vostra completa disposizione, prometto, risponderò con molto piacere a tutti e a tutte. Siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi, è stato veramente un programma molto molto, direi, interessante, con della bella musica sempre su licenza Creative Commons. Le notizie erano più o meno, insomma, belle, non tanto belle per quanto concerne la situazione libica. Comunque staremo sempre a vedere in questi giorni, in queste settimane, se ci saranno degli sviluppi positivi. Io mi auguro sempre umanitari e di pace, vabbè, speriamo, come si suol dire, non ci rimane altro che sperare per il meglio nella situazione libica e anche per il meglio della situazione giapponese, che dopo lo tsunami, insomma, ha portato delle conseguenze molto molto gravi. Sapete tutti, insomma, quello che è accaduto nelle centrali nucleari. Bene, un motivo in più, insomma, per cercare di scegliere altre fonti piuttosto che questo nucleare, che potrà fruttare, però è, direi, molto molto pericoloso. E come spesso dico, attenzione, perché con la natura non si scherza, anzi tutt'altro, noi siamo dei moscerini, confronto la forza e la potenza della natura. Grazie a tutti, ci ritroviamo prossimamente, ciao, un abbraccio da parte del Mangia, ciao. La web radio che stai ascoltando appartiene a Circuito Radio Net Web, il primo network di musica copyleft.